Ragazzi, bentornati alla cena dei Regini. Siamo stanchi, eh? È stata dura, eccetera. Ma invece no, sempre tanta allegria. Quanto è stato divertente festeggiare il Tanabata assieme a Laus. Una serata di musica, di divertimento, di giochi, di maid, di belle maid, di bei cibi, di bella musica. Tutto era bello e tutto era buono. Tutto bello, tutto, perché giustamente era la serata dedicata al sogno e quindi bisognava pensare in grande. Assolutamente. E comunque ci siamo divertiti, c'è stata parecchia gente, veramente tanta affluenza e bisogna ringraziare tutte le persone che hanno sacrificato un pomeriggio, una serata di vita inutile e sono venute a fare una bella serata all'Aus e comunque a mangiare del cibo particolare, spettacolare. Sì. Ad ascoltare un concerto sotto le stelle, a gustarsi questa atmosfera qui, e anche ragazzi, gli artisti bravissimi, hanno disegnato, hanno tatuato, hanno discusso con i ragazzi di arte, eccetera, li hanno anche invitati a disegnare. C'è stato una specie di workshop creativo là con i ragazzi ed è stato veramente bellino, ragazzi, una serata meravigliosa. Un ricordo di questo Tanabata. Ma direi intanto le canzoni dei cartoni animati, perché mi riportano proprio ad esempio più belli. Poi la gente vestita, insomma, in modo tradizionale, perché cosplay, c'era anche certo, c'erano i cosplay, c'erano dei kimoni particolari, vestiti tradizionali, c'era di tutto, ragazzi. Ricordi particolari di questo? I mari di sushi che sono arrivati all'Aus. Bellissimo, sushi in tante forme, tanti colori, quanto è stato bello, particolare, perché non è che si vede spesso il sushi, è così tanto sushi, è stato fantastico. Un ricordo, una cosa che ci ha unito. A un certo punto non bastava più quasi, per quando nonostante avessimo preso così tanto. C'era un overdose di sushi, la gente si stava per trasformare nella sirenetta. per quanto l'ho dovuto smettere, ragazzi, basta, perché altrimenti. E mi hanno risposto in giapponese. Un ricordo, un'immagine di questa serata. No, io per me sono stati carinissimi gli artisti, cioè i ragazzi, la ragazza che faceva. Noemi che ha fatto il tatuaggio. Bravissimi, molto gentili, comunque c'era una. Abbiamo qua un'opera originale della serata. Pensa, bene. Grazie. No, comunque è stata una bella serata, bella, c'è tantissima gente, bello. Importante. Ci deve essere di più. L'anno prossimo di più. L'immagine che mi è venuta subito in mente a me è stata quando praticamente appena ho varcato la porta che dava all'esterno. Quella musica, cioè, ho sentito quella musica di sottofondo, che la musica per ammirare meglio le stelle, per poter proprio entrare nell'atmosfera, che cominciava a abbassarsi, fino al semplice suono di una chitarra e del cantante di Fortune che cantava, e le persone in yukata, in kimono, che usavano queste candeline magiche che ci sono durante le feste di Capodanno, e li andavano in giro con questa luce e giocavano con queste piccole luci e sotto appunto le stelle, un'immagine veramente fantastica. Bello, perché c'è stato il momento, diciamo, più dedicato al sogno verso il finale, in cui musica abbassata, più rilassante in acustico, e poi queste persone tutte attrezzate nella loro candela magica, candelina, magica, stellina, eccetera, che andavano in giro, e questa luce di stelle era bellissima, ha illuminato tutta Laus. L'immagine è venuta proprio la perfezione della serata. Fantastico, fantastico. Serata unica da ripetere, speriamo l'anno prossimo. Siamo in titolo, ovviamente. Comincerò a spammare già da adesso. Siamo in 365 giorni. Già lavoriamo all'edizione. Tutte le tue amicizie scenderanno in questo momento. Rilanciamo per l'edizione 2015 adesso, perché bisogna farlo. Ma ancora prima c'è stato il Fable Music Fest, questa festa della musica, anche là grande partecipazione, la musica grande protagonista, e quindi una bella serata assieme, particolare, perché comunque ritrovarsi all'Aus è sempre tutti gli eventi che fa l'Aus sono comunque belli e particolari. È stato divertente sotto le stelle qua fuori guardare e ascoltare la musica assieme. E poi il giovedì ormai l'abbiamo definito come giorno del cinema. Abbiamo visto un film, diciamo, un po' surreale, Santa Sangre, un film d'autore, surreale, particolare, eccetera. Veramente intenso. E poi un mini torneo di Guitar Hero tra noi per giocare, per ritrovarsi attorno a questo giochino elettronico molto divertente, del quale io ovviamente avevo disimparato le regole, ho fatto alquanto schifo. Ma ragazzi, beh, andate. Voglio dire, comunque, se ogni giovedì queste cose si ripete, comunque il giovedì c'è sempre il film e il gioco. E quindi? Ah, no, no, io pensavo che prendevi la parola per dire dai, non sei stato così male. No, Bach, ma... non potrò mai mentirti in questo modo. Accetta. Hai fatto schifo oltre ogni... Dai, l'importante è la partecipazione. Ragazzi, la cena dei regini. Due posti si stanno liberando, quindi cena chioggiamac.it, se vuoi partecipare anche tu che sei a casa. Stiamo cercando. Adesso però sostituiamoli con due veline. Due mail. Siamo a posto. Il back.it per seguire i prossimi eventi, perché c'è il calendario con gli altri eventi che si prevedono, concerti, giochi di ruolo dal vivo e quant'altro, e sarà tutto online. Adesso un piccolo spazio musicale per poi tornare con l'ospite di questa settimana. Vuoi sapere chi è? Aspetta 5 secondi, beccati questa musichella qui. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, la cena dei regini, siamo qui con l'ospite di questa settimana, per meglio dire abbiamo registrato l'intervista a loro, un gruppo di Torino, e sono stati gentilissimi, hanno passato qua anche un'indimenticabile serata di grigliata assieme, venivano da Torino e sono i Abiura, che adesso abbiamo fatto qualche domanduccia giusto per conoscerli un po' e adesso ci becchiamo questo video. Guardo un po' che è andato. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Siamo in compagnia adesso con gli Abiura, giovane band che ci è venuta a trovare da Torino, e scambiamo quattro parole con loro. Ragazzi, gli Abiura, come e quando nascono, la vostra storia e come descrivereste la vostra musica in breve? Allora, in realtà la storia è molto breve, perché noi nasciamo a ottobre, ci siamo incontrati a settembre per la prima volta, io sono l'ultima arrivata. Loro già suonavano assieme da un po', però il nome Abiura nasce appunto a ottobre. E la nostra musica, secondo me, è un insieme di un sacco di idee diverse. È ovviamente rock e metal, però in un miscuglio sperimentale. Diamo subito un riferimento a chi ci ascolta da casa e vuole andare a cercare sul web, dove vi può trovare? Su Facebook, digitando Abiura, con la I lunga, e poi abbiamo il sito internet www.abiura.com, sempre con la I lunga. Quindi vi siete già premuniti di sito internet. Abiura, avete scelto questa parola che su Facebook avete descritto come una privazione quasi religiosa, in termini religiosi. Quali sono le scelte, le privazioni che un artista deve affrontare per seguire la sua musica? E poi come mai avete scelto questo nome? Allora, perché non è una privazione, secondo me è proprio una scelta. Bisogna scegliere di abbandonare ogni tipo di legame imposto, che non vuol dire abbandonare i tuoi legami, ma quello imposto, quindi abiurare qualsiasi cosa di dogmatico, perché il dogma, l'arte, è la parte più antica e più profonda di un individuo, che è diverso da ogni altro individuo. I dogmi invece, quindi i legami imposti nella società in cui nasciamo, sono fatti per rendere tutti gli individui molto simili e quindi non farli entrare a contatto con la propria parte più interiore, più intima. Quindi rinunciare alla paura, perché fa molta paura rinunciare ai legami imposti e ai dogmi. È l'unica cosa, perché poi questa cosa comporta ovviamente una serie di crisi e paranoie, quindi... Fantastico, ma è lei la filosofa oppure avete scelto tutti questo nome? Una parentesi. Avete fatto, è lei. Noi siamo più musicisti. Ragazzi, ragazzi, questo c'è il braccio e la mente. Il gruppo nasce e cresce nella scena musicale torinese, sì. Bene o male. Come avete trovato la scena italiana dal vostro punto di vista e quali sono, se ci sono, delle cose che aiuterebbero le giovani band a crescere? Vabbè, la scena italiana è sicuramente molto in crisi. Dagli anni 80 c'è stato, secondo me, un down a decrescere. E credo che la cosa principale sia la collaborazione tra band, perché noi siamo riusciti anche a fare tour senza avere un'etichetta, per esempio un booking, solo con la collaborazione. E tutti quanti, con tutti i gruppi con cui io parlo, in realtà sento questa problematica, quella principale, che è la collaborazione. Poi ovviamente c'è la crisi, la gente non ha soldi, i locali non hanno soldi, nessuno investe sulla musica, quindi ovviamente poi cioè, è molto più grande il problema. Però secondo me se si iniziasse a collaborare tra di noi veramente, senza poi farlo davanti e poi dietro cercare di metterti un po' nel culo, allora sarebbe tutto diverso. Giustamente. Ora la domanda che faccio a tutti i miei ospiti, un grande classico per chi ci ascolta soprattutto, gli Abiura sindaci per un giorno di una città italiana, quali sono le prime cose che fareste, le prime normative che dettereste in questa città italiana per risolvere la situazione? Musicale o la situazione in generale? In generale, ragazzi, vedete questa città a vostro... Avete questa città sotto il vostro dominio per qualche giorno, cosa ne fareste? Io a Torino perché ci vivo, però se poi tu vuoi rispondere per la città del Vaticano. È una città fuori porta. Vabbè, io a Torino per ovvi motivi e in realtà non so bene cosa farei, perché non è una domanda che è una domanda che non mi ha mai fatto nessuno. Boh, sicuramente. Modestamente, bisogna sottolineare la... quindi non gestireste così liberamente la città, praticamente come qualsiasi politico italiano sta facendo in questo momento? No, io non sono in politica e non ho nessuna intenzione di entrare in politica per questo motivo. Perché... Bellissimo, potresti essere eletta alle prossime elezioni. Ma ragazzi, adesso torniamo... Ho giocato dei verbi però. salutiamo gli Abiura e noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale alla cena dei Regini. This morning I woke, restless and heady, with blood pulsing fierce in the vein. There's light on a line this morning and maybe forever. I move with regard for the signs. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Somewhere to the east, the sun is stirring, starting to light up the sky. And I'm lying here reliving the last few days, 'cause I missed most of them the first time. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth. I thought that we could, I thought that we would, I was mistaken. No, I've searched my heart to prove better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Bentornati alla cena dei regini e lo spazio delle notizie dalla strada, quelle curiose, divertenti, che noi selezioniamo attentamente per scegliere proprio quelle la più stupide e le commentiamo assieme, perché ovviamente ci vuole rilassatezza. C'è un lavoro di tip dietro questa cosa che c'è, ormai ricerche, ricerche tue ricerche. Ormai è automatico, una vecchia notizia strana, copia e incolla e la spari alla cena così. C'è anche il back.it per suggerire a proposito queste notizie, se hai beccato anche tu qualcosa di strano sul web lo puoi segnalare. Ma iniziamo, perché comunque si sa, anche è diciamo abitudine diffusa anche per chi pratica spesso internet, la vita notturna davanti al web o comunque davanti al computer. È una ricerca di un'università di Budapest in Ungheria ha definito che le persone che dormono poco generalmente hanno una sensibilità, un'intelligenza maggiore. Quindi hanno studiato, secondo una statistica, che le persone con un quoziente intellettivo più alto sono quelle che nelle ore notturne sono più attive. Tu non hai senio, tu non hai la persona più intelligente. Che figata. Pensa, questa capacità di sfruttare la notte denota un'intelligenza particolare. Oppure un sintomo di pazzia. Perché non fa testo? Tranquillo Andrea. Andrea l'eccezione è un attacco gratuito così. Ogni tanto no, va bene. Comunque come notizia, cioè alla fine non so quanto non può essere veritiero. Ma non posso, non so quanto può essere veritiero alla fin fine. Cioè non penso, no, di bene. La notte è tipo dei creativi, più per le menti. Sì, sono d'accordo, si può anche dire la notte porta pensiero e cose del genere, però alla fine la notte, secondo me, è quello che fai durante la notte, poi quello ovviamente durante i giorni. No, perché la notte sei più libero, hai meno impegni, hai meno cose, e quindi comunque sei portato più ad ascoltare te stesso. Diciamo che il giorno sei occupato durante la quotidianità, il lavoro, occupato, le cose, certo. Quindi non hai la stessa attenzione con cui la puoi fare la sera, con cui sei più la tua mente più rilassata. Tra l'altro guarda, se ci fai caso, la maggior parte dei creativi o degli informatici, programmatori che conosco lavorano tutti di notte, tutti. Sì, è vero, è molto sfruttata anche per questo motivo. Ma ragazzi, ci sono cose comunque sfuggono a volte al controllo. È capitato a questa ditta un bug all'interno di un pacchetto di patatine. Una volta aperto ha rivelato la presenza di un topo, però tu dici l'hanno denunciato eccetera, no, perché il topo era stato fritto a parte e quindi, incredibile ma vero, hanno sono riusciti con questo escamotage legale a superare ogni problema, ogni what? Inconveniente, perché comunque tra l'altro è successo a due fidanzatini veneziani lo scorso 16 maggio. Loro erano lì, hanno comprato lo snack, hanno beccato il topo, denuncia, accertamenti, eccetera, però è il topo è stato fritto a parte. Il topo è stato fritto a parte, quindi è un. Tutto a posto, va, tutto a posto. poteva essere una cosa nuova tipo la Willy Wonka, va, se trovi il topo fritto non fritto gira la fabbrica, gira la fabbrica. È un che gadget, è un gadget in più, cioè che ti fa il topo fritto, devi assaggiare il topo fritto. No, ancora no, il tavolo. Però... sarebbe che guarda, se sei cambiato un bambino non è una cosa bella, dai. Anche il bambino prende il topo fritto e se lo mangia, perché il bambino perché? Non ha i preconcetti come voi. Eh beh, sì, hai ragione. Siete delle persone chiuse di mente, ragazzi, mi spiace. Mamma, è uscita una sorpresa nuova dalle patatine. Guarda! Sì, anche fritto. Perché il topo non era propriamente piccolino, si parla di un topo di circa 30 centimetri che ha causato addirittura... 30 centimetri, cioè era un bambino praticamente. Ragazzi. Era tutto il pacchetto. 30 centimetri che ha addirittura provocato lo svenimento della ragazza che è finita al pronto soccorso. Dai, no. Andrea, ti cucineremo un topo fritto. Immagina se aveva cominciato a mangiare mentre scopriva il topo. No, ma fosse accaduto a lui, stava là a mangiare, prende questa bella carcassa di topo e Andrea dice, ah ecco, anche le proteine. Ragazzi, l'importante è il dettaglio, il topo è stato fritto a parte, la ricorderemo così quest'anno, la ricorderemo così. Passiamo adesso allo spazio comunque, diciamo più tecnologico delle notizie della Cenereggini, con un nuovo gioco che Google sta lanciando in questi giorni tramite l'applicazione delle mappe. È successo anche per i Pokémon. Sì, me lo ricordo, per viaggiare potevi beccare. E che bello che dopo quelle Pokémon chi riprendeva tutti 151 e compriamo un form, gli arrivava la lettera a casa dicendo tu sei un Pokémon Master. Oh, wow, fantastico. Continua comunque questa goliardia di Google che ha lanciato il gioco Smarty Pins, dove Google andrà a dare degli indizi, una specie di caccia al tesoro su Google Map, loro daranno degli indizi e tu tramite questa, mettendo la freccettina che si usa su Google Maps nei posti indicati, comunque riuscendo a risolvere quegli enigmi, avrai la possibilità di partecipare al gioco e risolvere questi diciamo, obiettivi e quindi andare avanti. Attualmente è ancora in fase di test, solo per la versione inglese, quindi comunque devi... un attimo industriati, tipo ad esempio Via Verdi sarà Green Street. Sono sicuro che devi un attimo cercare di capire. Fatto un traduttore di Google sicuramente. E quindi devi riuscire a capire tutte le cose. Però penso quando uscirà per tutti quanti è una cosa molto carina. Perché? Perché alla fine tu magari è un gioco particolare, diverso dal solito, rimani là fermo davanti al telefonino, invece di stai comunque fermo davanti al telefonino ma fai altro e ti dirà quindi aspetta, invece di farti una vita, diventare qualcuno, stai davanti al telefonino su Google Maps, perché non è le altre persone le persone in generale che fanno, non sanno tipo la generazione non è così. Ma invece sapevo di un mega videogioco in realtà aumentata che stava per lanciare Google, ma una cosa proprio bestiale, con proprio una sorta di sfruttamento allucinante di Google Plus, quindi community, social network, tutto quanto che si basava tipo sull'andare su un determinato posto, fotografare una determinata cosa. C'è già, si chiama Ingress. Esatto. E tra l'altro io ogni tanto gioco, ma molto perché mi hanno invitato alla beta tempo fa, ci sarà ancora il mio account da qualche parte. Ma ragazzi, la tecnologia a volte tradisce, ma a volte è veramente la mente umana a tradire. Quindi hanno fatto questa ricerca, pensa tu, dall'università di Harvard, 11 tipi di vari esperimenti, uno in particolare ha scosso un pochettino l'attenzione pubblica. Hanno chiesto a delle persone se preferivano passare dai 6 ai 5 minuti da soli con i loro pensieri, quindi senza fare nulla, oppure preferivano una scossa elettrica, e la maggior parte di loro ha preferito la scossa elettrica, cioè il peso di stare con i tuoi pensieri era talmente tanto che tu dici mi becco la scossa elettrica istantanea, il dolore però poi passa. Soprattutto quanto erano pazzi questi indizi. No, guarda, sinceramente non so se avrei preso la stessa decisione al loro posto, perché 5-6 minuti da solo con i miei pensieri, tu vedi come il tempo comincia a rallentare, quasi a fermarsi. Neanche te ne rendi conto. Sto di un bene solo con i miei pensieri. Però dipende, magari anche dallo spazio, poi nel silenzio più assoluto. Ma tipo, quante volte hanno fatto dire, per esempio, quante volte hanno sentito dire appunto che quando, anche quando sei in tanti ti senti solo, perché sì. Spesse volte così, cioè la solitudine comunque fa paura a tanti, rimanere soli, cioè c'è chi ne fa buon uso del proprio, dei pensieri, pensare. Sì, la vita, sì, però, certo. Però pensa alla pesantezza del pensiero, cioè di che entità deve essere per preferire una scossa elettrica. Sì, sì, assolutamente, sì, no, quello sì. Deve essere alla fine tu sei abituato a vivere col tuo pensiero, quindi andrà a farti male pur di evitare una cosa che sì, comunque però, farai. Sì, però durante la giornata comunque il fare ti porta lontano i tuoi pensieri. Invece doverli affrontare, cioè nella solitudine, è diverso. C'è stato un esperimento in una stanza completamente insonorizzata dove potevi sentire il tuo cuore battere. A meno, si sentiva praticamente a meno 9 decibel la stanza. Esatto. Sì. E praticamente le persone che erano dentro a un certo punto hanno cominciato a sbattere sulla porta cercando, implorando di uscire. Le persone, comunque... una alla volta entravano. Sì, sì, sì, certo. Perché quello è proprio il massimo di isolamento. Non puoi neanche sentire il rumore, neanche sentire un suono che ti faccia compagnia e ti distrugge dentro. E comunque, non fa... come tu sentissi, già i tuoi pensieri li amplificati da tutta la stanza e poi ti ritornassero. E la e poi comincerebbe a esserti la crescita al massimo della paranoia. Diventi nevrotico. Comunque, come dice Bach, dire che turbe psichiche. Però cioè, ha detto una cosa giusta a Bach, che è una cosa che passano tutti. Quando uno dice, guarda, è meglio che faccio qualcosa perché... se ci penso non divento pazza, perché comunque in quel momento non riesci ad affrontare una cosa e bisogna di fare tutt'altro. A tal proposito, a Berlino comunque è iniziata la sperimentazione di una pillola veramente particolare, la pillola per cancellare la paura. Loro sono partiti da una medicina, un tentativo di medicinale per curare il Parkinson. Sono arrivati alla conclusione che comunque quel medicinale, agendo sulla dopamina, una sostanza che è nell'organismo, riesce comunque a favorire il disgregarsi dei ricordi negativi e il formarsi di quelli positivi. E tra l'altro la prima paura che stanno affrontando con questa pillola è quella atavica, la paura dei ragni. Cioè, come a dire, già stanno sperimentando questa pillola, per cui tu la prendi e ti passa la paura dei ragni. E chi ha paura delle pillole? si farà le flab, perché deve comunque arrivare a qualcosa. No, comunque... Una paura che vorresti cancellare, Pam. Sinceramente... In generale, non necessariamente... Forse paura. L'unica paura che ancora che ricordo di avere è quella di quando sento il vuoto sotto i piedi, quando sento quella sensazione di vuoto. Sempre ultimamente non l'ho più sperimentata, però da quanto ricordo, quando mi capitava avevo una specie di piccolo sobbalzo. La vertigine? No, il vuoto. Quando facevo arti marziali ogni tanto mi proiettavano e quando c'era una proiezione particolare in cui proprio stavo sollevato per un paio di secondi in più, era come se tutto si spegnesse per un secondo e poi si riaccendesse. No, penso. Quindi penso che forse la sensazione di vuoto, la sensazione che ottengo quando vado a mare, è quella che mi prende particolarmente, quindi penso sia quella. Questa ti tocca particolarmente, quindi pillola per il vuoto e via. Paura? Serpenti. Atavi. Abbiamo già parlato di questa, già l'avevamo affrontata, Però già per i ragni c'è una soluzione, quindi di lì a poco penso. Sì, che... è una fobia. Penso che sia. Fobie. Ragazzi, paure? Io forse ogni tanto quando sono solo a casa incomincio a sentire tipo rumori di tutti i tipi. Ok. Ma non so se. Ma dipende dal. Dico io, paura di avere incubi. La tua. Quella te la devi prendere per forza, allora. Sì, quella forse la paura di avere incubi, vabbè, però quando. Che poi mi capitano sempre quando non mi vedo, cioè non mi vedo niente di pauroso, e quello è il problema. Mm-hmm. Però comunque la tua mente rielabora delle immagini, sì, e sì. Poi la mente è l'arma più brutta che una persona può usare verso gli altri e verso se stessa, perché soprattutto durante la notte un singolo rumore può trasformarsi in mille altre cose terrorizzanti. Dopo questa sviolinata sulla paura di banda, Passiamo invece a una classifica, quella veramente strana, per meglio dire uno studio fatto da per un sito online da tale Jordan Ellenberg, perché sappiamo che comunque comprare libri è una cosa gratificante, il libro come oggetto, il libro come ricordo, mm-hmm. anche come messaggio, come dire, scoperta, no? Via dicendo. Ma spesso, troppo spesso dimenticati sono i libri comprati ma non letti. Allora questo tizio ha fatto questa ricerca, questo studio su quali sono i libri, i maggiori libri non letti tra quelli che solitamente si vendono, che sono sul mercato. Gli ha dato il nome di Hawking Index perché dal nome di Stephen Hawking, il grande scienziato, perché i suoi libri in generale sono quelli più non letti di tutti. Che non letti non vuol dire non comprati, vuol dire comprati ma non letti. Mm-hmm. E quindi soprattutto al primo posto in assoluto c'è il suo libro, che qua aveva anche il titolo, Dai Big Bang ai buchi neri, breve storia nel tempo. Questo è il libro che tutti vorrebbero leggere ma non riescono mai a finire. Evidentemente è una cosa... Ho cominciato e non sono riuscito a finire. Ah, vedi, allora, l'Hawking Index funziona, ragazzi, stiamo iniziando a dare una... Però... Ci sono anche dei titoli che sono abbastanza sorprendenti, ad esempio Hunger Games, la ragazza di fuoco, si colloca nel 43.4% di casi in cui il libro è stato comprato ma non letto, eppure è un libro abbastanza diffuso. Anche tu l'hai comprato e non letto oppure a prescindere? No, a prescindere. Ma guarda, io dopo ho visto Battle Royale giapponese, Hunger Games non l'ho proprio... Io sfortunatamente l'ho letto. Non ti ha. No, cioè lo leggo perché alla fine ne leggi uno, vuoi sapere come diavolo va a finire questa cosa, però. Ma io veramente mi chiedo più che altro una domanda riguardo a questo libro e a tutti i suoi fan. Su Facebook ci sono molti fan di Hunger Games che dicono: mi offro volontario, partecipiamo agli Hunger Games. Però si rendono conto che Hunger Games è una battle royale in cui rimane soltanto uno in vita in cui tutti gli altri ti ammazzano a vicenda. E vabbè, come fai a dire partecipiamo agli Hunger Games? C'è la si chiama selezione naturale. Quando è inutile vero. Okay, emulazione, perché vedono queste storie fantastiche e vorrebbero proiettarsi. E proprio per emulazione pensa che all'interno dell'Hawking Index c'è anche il celeberrimo caso di 50 sfumature di grigio, quel libro, che poi diventerà anche film, che tratta un po' argomenti diciamo un po' particolari di alcune fantasie particolari. Questo libro che è diventato famosissimo e vendutissimo, molti lo comprano ma non che lo finiscono. È una spogliata di situazioni catastrofiche. Io ho un pensiero di perché ti hai così tanto comprato. Se posso dirlo, vai. No, praticamente la maggior parte dei casi che vengono espressi nel libro è tutto ciò che viene caratterizzato come tabù dall'essere umano, mm-hmm. tutto ciò che tutte le persone vedono come cosa di sporco, di sbagliato. Guarda, in realtà non è nemmeno vero, non so se l'hai letto. Ho letto alcuni capitoli, io per esempio l'ho letto, e ti posso dire che l'unico motivo per cui viene comprato a bestia dalle donne è perché ti dà questo. Dà alle donne questa idea della possibilità che effettivamente quest'uomo bastardo che fa soltanto le cose sbagliate poi alla fine venga redento. Non esiste questa possibilità, ne va, cioè, non c'è. Vero, dico io, lasciate stare. No, io ricordo ancora una volta che stavo andando in metropolitana a Roma e accanto a me c'era una signora che leggeva appunto 50 sfumature. Io forse quasi voleva lanciare qualche messaggio, mi sa, nel pubblico. Ragazzi, Pollino Rosso sono le ultime notizie, quelle là un po' piccantelle, quelle con un background particolare. Una è la prima, è di carattere diciamo anche un po' sociale, perché Facebook ha allargato la possibilità di identità di genere che sono possibili elencare sul proprio profilo. Addirittura le ha allargate talmente tanto da considerarne 58. Cioè, tu non puoi essere solo maschio o femmina, puoi essere 58 sfumature di sesso. 58 sfumature di sesso. Tra cui una che mi ha particolarmente colpito, il femminiello. Che cos'è? È napoletano prima di tutto. Femminiel, però l'ha messo Facebook, cioè su suo... Facebook è napoletano, ma tu che vicino a campana. No, hanno aggiunto anche delle realtà locali, come sono andati anche sul Femminiello è gay. È napoletano, no, non è gay. In realtà sarebbe una sorta di travestito. Però l'hanno messo come scelta ufficiale. Cioè, diciamo il transgender non operato. Ah, vedi già. Il femminiello. Il femminiello. Loro sapevo questa cosa e loro l'hanno aggiunto in maniera. Non sapevo questa cosa. Le pare che comunque l'arcigay abbia stretto questo, diciamo, accordo, questa piccola, chiamiamola, pressione sul faccialibro, e siano riusciti a far introdurre questa cosa. Però pensa, 58 stati diversi. Io sicuramente ignoro la maggior parte di loro, perché c'è 58, cioè, uomini a cui piacciono le donne, donne a cui piacciono gli uomini, uomini a cui piacciono gli uomini, donne a cui piacciono le donne, pansessuali, mezzofili, necrofili, cioè, uomini che odiano le donne, non c'è neanche un paese perfetto. Direi che abbiamo cambiato niente. È un paese vive. Ma anche passione per le nonne. Io penso che abbiamo preso le categorie, quelle dei siti hard, e le abbiamo messe da parte. Sarà molto bello passare passato San Pop. Adesso Pop. Però pensa, 58, grande scelta e grande. Immagino una persona, ok, c'è questo. Ma questa parola che significa? Va a cercarlo. Ma forse... va. Se c'è buccaca me la cambio in buccaca. Tu te c'è goloso, ma ragazzi, posso dire, un sacco di crisi di identità. Cosa sono io? Sono 58. Non si sa più cosa scegliere, non si sa più dove andare a finire in molti sensi. Ma ragazzi, l'ultima notizia, grande novità per Facebook, grande novità anche per YouPorn, questo grande come dire, colosso della rete. Sta attraversando un momento difficile, perché c'è crisi per tutti, anche per YouPorn. I mondiali hanno fatto crollare i contatti su YouPorn, perché la gente passa dal pruritino di un certo tipo a quello sportivo, cioè si distrae un attimo, e questo per i gestori di YouPorn è imperdonabile. Si vede che loro vorrebbero sempre la gente là a fare cose. Allora, che hanno fatto? Dice, modifichiamo il sito per venire incontro alle esigenze dello sportivo, anche quello più pruriginoso. È venuta fuori questa nuova versione di YouPorn, in cui grande aggiornamento, in cui innanzitutto puoi cambiare lo sfondo del sito con la bandiera della tua nazione. Ebbene sì, mancavano le genere. Passa. Cosa che non sinceramente mi sfugge un attimo, perché cioè, per fare cosa? Autoerotismo patriottico? Cioè, che vuol dire? C'è quello con la bandiera sulla sfonda. Io so chi lo farebbe. Cioè, già io sfido a vedere lo sfondo quando poi la gente va a vedere altro. Ma soprattutto per il vero sportivo, quello che non si vuole mai separare dal continuo flusso di notizie riguardo i mondiali, YouPorn ha aggiunto uno spazio con le novità in tempo reale sui mondiali. No. Quindi tu sei là che guardi. Gol! Gol! dalla passione dei mondiali, passione contro passione, capisci? che bella cosa. Così non solo le donne già si lamentano del calcio, ma del calcio è colpa del porno. Perfetto, guarda, perfetto. Cioè, le donne si lamentano del porno. No, mi penso, se c'è la versione femminile di un sito hard, c'è il live blog tipo con le notizie di Barbara D'Urso. No. No, no. Il link veloce all'ultimo video di Clio Makeup. Oh, dai. Adesso la stiamo facendo proprio così, si sta questo è bellissimo. Allora, pensiamoci, ragazzi. Ragazzi, allo spazio delle notizie, torniamo tra poco con la classifica. Il back.it per guardare tutte le puntate precedenti e per comunque guardare anche il calendario delle prossime iniziative. Torniamo tra poco, piccolo spazio musicale. A tra poco. We'll be right back. ragazzi da Cena dei Regini, bentornati, accomodatevi alla nostra tavola per commentare assieme le 10 ricerche scientifiche più inutili di sempre, perché noi lo vediamo anche nello spazio delle notizie, ci sono veramente tante ricerche scientifiche al limite della follia. Poi ricordiamo che dietro una ricerca scientifica c'è sia l'approvazione, diciamo, di un collettivo, sì, diciamo, studentesco, sia dei soldi stanziati solitamente dalle università, quindi non è una cosa da poco. Quindi queste sono le 10 ricerche scientifiche che è veramente incredibile che qualcuno ci abbia speso soldi per farla. Dal numero 10, ricerca che può sembrare fondamentale, hanno scoperto che le scimmie non sanno scrivere sulla tastiera. Hanno scoperto questa cosa, l'impossibilità. Sai quanti ci hanno messo a scoprirlo? Non solo, hanno dato a 6 scimmie una macchina da scrivere per vedere se riuscivano ad utilizzarla e la cosa non è andata in porto. Che cosa strana! Invece l'hanno rotta e l'hanno utilizzata come, diciamo, bagno. Esatto, esatto. Quindi da qui si è dedotto che la scimmia non ha voglia di scrivere, ma altre cose per cui comunicare al mondo. Dai, molto meglio hanno scritto tante cose meglio dei libri di Fabio Volo. può essere. E poi ragazzi, continuiamo con la classifica, questi 10 studi, 10 ricerche veramente inutili. Alla numero 9 può essere anche una questione di turismo, una maniera per rilanciare il famoso turismo. Una ricerca che spiega che gli abitanti di San Francisco hanno un'alta media di rapporti sessuali. Hanno fatto questa ricerca. Buon per loro! Perché comunque dice fanno sesso in media con almeno 30 persone. Cioè, pensate, una bella... Ma c'era l'inviato, là, lo studioso che andava ogni porta per porta, stai facendo sesso? Sì. Stai facendo sì. Ah, e lei era con quell'altro, sì, vabbè, ok. No, sono là. Gli avranno fatto il sondaggio, con quante persone avete fatto sesso? E tu vedi la sfilata di nerd, di... Ah, io 150, sì, metti 200. Sicuro. Quindi comunque è particolare queste ricerche, cioè assolutamente importanti, necessarie per il turismo verso San Francisco, sarà aumentato del 200% dal 2011 quando hanno fatto questa ricerca. La numero 8, incredibile, è una ricerca questa veramente abbastanza particolare, è stato studiato un caso di una anatra omosessuale e necrofila. È successo per la prima volta nel 1995, è stato testimoniato in diretta da questa ricerca di un famoso biologo che si trova in un museo, e hanno continuato lo studio della vita di quest'anatra che prima ha dimostrato le sue particolari, diciamo, tendenze sessuali, e poi addirittura ha iniziato a copulare con un'anatra, diciamo, che era morta. E il rapporto, addirittura la ricerca a testa, che durò addirittura 75 minuti. E poi l'hanno messo YouPorn per aggiornarlo. Ho fatto un live blog anche di questo. Ma l'avete saputo che pinguini e anatre sono proprio... necrofili. Sono molto... perversi. Hanno delle situazioni strane, infatti al numero 7... L'altro studio veramente incredibile è la pressione sanguigna di un pinguino mentre, diciamo, è nel momento del coito. No. Dell'evacuazione, chiamiamola così. Hanno studiato la pressione sanguigna di un pinguino in quel momento. Nel 2003 due scienziati, perché in due addirittura. Per vedere il pinguino fa cacca. Perfetto. Dice quando, a che punto è? Ah, ok, va bene. Ma immagino il pinguino nel suo momento è quello con la pompetta. Il pinguino col giornale davanti. Ti guarda. Incredibile. Ma cosa è necessaria questa, immagino, vero? Tutti volevano sapere quanto fosse la pressione del pinguino in quel momento. Bisogna aggiornarsi su tutto. Alla numero 6 invece, una ricerca importantissima, fondamentale direi per la razza umana, però comunque abbastanza palesata. Ragazzi, numero 6, agli uomini piace il seno femminile. Cioè, hanno fatto questa ricerca, diciamo, psicologica. Avete scoperto l'acqua calda! Minchia, davvero? Eh sì, uno è più... Hanno dovuto fare una ricerca per scoprirlo. Bravi! Non resistono alla vista di un bel seno. Nel 2007 c'è stata questa ricerca che l'ha attestato scientificamente. Eh beh, allora sì, prima invece era ancora sul dubbio. Ci sono i dati scientifici. Prima era dubbioso su quanto. Anche di cappello, cioè. Ragazzi, sono cose che dovete sapere, perché comunque ci vuole una conoscenza anche scientifica del mondo femminile, e quindi questa ricerca dà questa profondità in più, chiamiamola così. Ragazzi, siamo ancora alla 6, giusto? Allora siamo alla numero 5, perfetto. Perché anche questa è fondamentale nella vita quotidiana di chiunque, sapere quanta forza è necessaria per trascinare una pecora a seconda della superficie, cioè la forza che bisogna imprimere per tirare. L'hanno fatto tardi questa. È evidente. Qua non lo dice, un team di ricercatori nel 2002 ha avuto questa ricerca, quindi 5 diverse superfici, per calcolare quale sia la forza necessaria per tirare una pecora. Why? No, seriamente. Nel mondo della pastorizia, forse. E quant'è, scusa? Può essere. No, qua dice semplicemente che hanno fatto dei rilievi per capire. E immagino queste persone che vendono i superfici e tiravano la pecora. Ci metto tanto. Aspetta, inclina la superficie. Passa l'olio. Ma spendere soldi, giornate. La pecora magari sul bagnato che non ha lo stesso grip, quindi ti scivola e viene via meglio. Sullo sterrato, cioè una pecora, perché poi ci sono le pecore diverse e devi calcolarla per ognuna di loro. Questi loro stanno ancora lavorando, secondo me. Sono una ricerca infinita, assolutamente, cioè, da media. C'è, cioè, quella più sportiva, quella più capricciosa, e quindi bisogna vedere un po' tutti i tipi di pecora con cui si ha a che fare. Alla numero 4, anche questa abbastanza un dato di fatto, forse no, è stata una ricerca scientifica per dichiarare che gli psicopatici hanno stile. 100 persone psicopatiche sono state analizzate per venire a, per fare questa, diciamo, statistica mondiale, praticamente, sulla vita dello psicopatico. Lo psicopatico, tra l'altro, analizzato anche nelle varie sfumature di psicopatico semplice, machiavellico o narcisista, perché loro hanno queste, diciamo, sottocategorie, è stato scoperto che sono particolarmente attratti da questa, dallo stile, dalla capacità di sapersi distinguere, diciamo, anche l'occhio vuole dalla sua parte, un occhio psicopatico. E beh, c'è proprio il libro Vogue per psicopatici e... devono attirare l'attenzione, quindi lo fanno anche come entrambi. Come al solito, Andrea, l'eccezione che conferma la regola. Diciamo che sei bocciato. Io non sono psicopatico. come da prova di psicopatico, certo. Andiamo da psicologo. Ragazzi, al numero 3, ricerca alta, anche questa fondamentale. Siamo alla top 3 stavolta. Sì, già questa. Perché analizza una fetta di umanità in via di estinzione. I miliardari sono bugiardi e comunque i ricchi in generale. Nella maggior parte dei casi si è scoperto che chi è ricco è anche un gran bugiardo, cioè c'è questa, chiamiamola, connessione tra le due cose, e quindi sono delle persone solitamente disposte anche a mentire per migliorare le loro, raggiungere i propri obiettivi. Che sorpresa anche questa. Il ricco è un po' bugiardo, un po' falso. E politico? È ricco e quindi è anche falso. Anche non è ricco, è falso. E quindi penso. Questo è vero, perché le persone ci hanno messo anche tempo a pensarci, a fare ricerche. Ma soprattutto a trovare dei ricchi. Che se tu potesse essere a questa cosa. Ma questo studio è stato fatto un po' di anni fa, quando ancora non c'era la crisi. No, ma non lo dice esattamente, però suppongo che sarà il 2011, sempre così. Ah, allora sono andati a farlo direttamente nel Parlamento italiano. O giù di lì, perché comunque una cosa tira sempre l'altra, ragazzi. Il numero 2, una ricerca fondamentale, soprattutto partita dal grande inconveniente degli auricolari del cellulare. L'auricolare del cellulare è solito aggrovigliarsi, sì, annodarsi, intricarsi tutto. Non anche una prova qua in tasca. E quindi perché non fare una ricerca sulle alte probabilità che muovendo un laccio o un filo si formi un nodo? È necessario, cioè, stabilire la statistica per cui un qualsiasi laccio, in particolare quello... Ma non avevo niente da fare, evidentemente. Diciamo che questo almeno è lo studio per cui si spende di meno, che alla fine ti basta un laccio, stai lì. Poi lo studi tranquillo. Questo documento, che contiene di forma ben 6 pagine, spiega però, il motivo... Ah, però, 6 pagine! 6 pagine che spiegare... grandi o piccole, magari sono anche grandi. Per spiegare il motivo esatto per cui si formano dei nodi nel momento in cui si mettono dei fili o dei lacci dentro una scatola e la si scuote. Cioè, quindi ti spiegano tutto il meccanismo fisico per cui il laccio all'interno di un contenitore crea. Le persone perdono tempo a fare cose. Buono, beh, è bello perché è comunque una cosa che ti rimane qua nel cuore. Tu ti svegli la notte con questa domanda: perché? Sì, ma ho capito, incuriosire, però tu immagina questa equipe di scienziati, sono 2 o 3, anche uno solo. Ma io dico, se non c'è qualcuno che lo fa. Secondo me questi erano tizi che dovevano laurearsi, volevano trovare un argomento per la tesi di laurea, sono controllati nelle tasche. Ci faccio una tesi di laurea, poi si sono accorti delle immagini. No, come facciamo? Vabbè, trasformiamo in studio scientifico. Ci hanno messo le immagini, secondo me. Sì, sicuramente, del filo aggrovigliato. Quindi alla fine servono 2 o 3 pagine a scassare. Quella curiosità che comunque ti viene quando tu ritrovi l'auricolare e lo vedi aggrovigliato, adesso poi puoi spiegarti il perché, questo è essenziale. Ragazzi, alla numero 1. Voglio proprio sapere la numero 1. La ricerca più essenziale per l'essere umano. Quella che secondo voi quale potrebbe essere la ricerca più inutile nella storia degli esseri umani? Fate degli esempi. Motore a gatto imburrato. Il motore a gatto imburrato. Sicuramente, no, questa volta sono proprio senza idea. Ragazzi, veramente una cosa particolare, giusto? Perché la scienza ormai tocca qualsiasi ramo, anche quello, diciamo, un po' più bucolico. E quindi alla numero 1, la ricerca più inutile della storia umana è: i polli preferiscono gli esseri umani belli? È stato rilevato proprio questo. Cioè, hanno fatto una bip di ricerca. Hanno fatto una ricerca mettendo davanti ai polli una gallina e una persona bella, ed è stato dimostrato che i polli preferiscono gli umani belli. Ah, però il pollo ha questa attrattiva per l'umano. Io immagino così qua, vedete, questa persona, la gallina e il pollo dietro a un vetro e 5 centimetri con si è mosso. No! Perché? Io si immagino, avete presente quegli spettacoli americani con un muro, un tizio da una parte e una tizia dall'altra e parlano tra di loro senza vedersi per vedere se si cacciano. Mm-hmm. Quando dall'altra parte un pollo. Pollo, gallina è buono. Il gioco delle coppie col ci pollo. Ci vedrei benissimo lì, va. Col pollo. E me l'hanno fatta. Può essere che si arriverà anche a quello. Ma invece hanno fatto uno studio sul fatto che gli esseri umani belli hanno meno malattie. Coberto infatti io sono ammalato soltanto 2 volte tutto l'anno. E io prendo veramente ierato la febbre tutto l'anno, per esempio. Perché non si sa mai. Stai male da ieri. Ragazzi, sono male da ieri per la seconda volta in 2 anni. Ragazzi, è la scienza, bisogna andare sempre avanti anche nello studio dei polli, perché ovvio, non si sa mai nella vita. Ma quella del pinguino per me avrebbe vinto. Sì, quella, no, quella del laccio, pinguino. Sono tutte. Quella del pinguino è una cosa geniale, cioè è una cosa veramente di cui l'umanità non può fare a meno, sapere a che pressione. Bisogna sapere la pressione. Assolutamente. Queste piccole ricerche che magari poi portano alle grandi sperimentazioni, alle grandi scoperte. Io vorrei chiedere a questi scienziati che hanno fatto cose del pinguino. Uno, esattamente cosa facevano mentre il pinguino stava evacuando? Due, cosa pensano di provare? A cosa pensano di arrivare una volta che fanno la visione del pinguino? Mentre nel suo momento clou. Magari riusciranno nel tuo toilette per pinguino. E allora è stato... La pazza vita degli scienziati, ben, sono loro che fanno grandi scoperte, anche le più strane. Ragazzi, questa era la Cena Regina di questa settimana e noi vi aspettiamo settimana prossima con una nuova puntata, nuovi ospiti, nuove notizie, nuove classifiche. E loro due nuovi. Cioè, ciao, questi sono tutti i episodi. La prossima velina della striscia visualizzazioni. La prossima velina, la Cena Regina potresti essere tu. No, scherzo. Ragazzi, ci vediamo per settimana prossima dal Bacche dei ragazzi della Cena Regina. Ciao.